Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Boni in redazione, Giacomo Spunti in regia per questa puntata di A Tempo di Sport, in cui parleremo anche, tra le altre cose, di Carolina Kostner, come avete sentito nel giornale radio di prima, che ci ha preceduti, dopo la caduta di ieri. Carolina bravissima nel conquistare una medaglia d'argento europea. Parleremo di sport invernali, della doppietta svizzera nelle discese, quella temutissima di Kitzbühel, e poi quella di Cortina che si è disputata ed è stata vinta dalla svizzera Gisin. Ne parleremo dopo, così come più tardi parleremo di calcio, parleremo della settimana delle milanesi, parleremo di Mourinho, che oggi ha escluso di nuovo Barotelli, ha confermato l'intenzione di querelare chi ha riportato quella frase che Mourinho avrebbe detto alla squadra dopo nello spogliatoio di Bergamo. Insomma, parleremo di tutte queste cose anche con gli ascoltatori. Per questo vi do subito il numero verde 800 24 00 24. Contatto per gli sms 349 238 6666. Di tutto questo parleremo dopo, ma adesso parliamo di rugby. Palla ovale. Buon pomeriggio Giacomo Bagnasco. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio a tutti. Oggi ultimo fine settimana delle coppe europee, c'è Viadana che potrebbe conseguire il colpaccio, cioè il passaggio del turno, gioca alle 19, ospita Bayonne, quello il match di giornata, ma c'è anche, e più tardi ne parliamo, un Sei Nazioni che vola su Sky e un presidente Dondi arrabbiato perché è chiaro che il bacino d'utenza sarebbe ridotto rispetto alle trasmissioni in chiaro sulla 7. Partiamo dalle coppe, Giacomo. Cosa è successo e cosa succede oggi? Ma guarda, intanto per cominciare ricordiamo le partite che si sono già concluse, addirittura due sono state giocate nei giorni scorsi. Giovedì sera l'Overmac Parma ha chiuso la sua brillante Challenge Cup con una sconfitta. A Brive hanno vinto i francesi 29-13, quindi Overmac, che ha saputo arrivare fino all'ultimo turno avendo ancora delle carte in mano per provare a qualificarsi, ma poi la qualificazione è saltata. Ieri sera ennesima sconfitta del Cammi Calvisano in Heineken Cup, che equivale, i nostri ascoltatori lo sanno, alla Champions League del calcio. Si giocava in Galles, vittoria del Cardiff Blues col punteggio di 62-20. D'altronde il Cardiff in tutta la Heineken Cup è l'unica squadra ad aver vinto tutte le partite giocate. Oggi pomeriggio invece si giocava a Rovigo, il Femici Z per la Challenge Cup ospitava i London Irish, ha perso 23-9, considerato il valore della squadra ospite non è un punteggio malvagio invece è il 40-0 con cui in Inghilterra si è concluso il primo tempo tra gli Worcester Warriors e il Carrera Petrarca Padova. Come dicevi, Carlo, mancano all'appello due partite, una è ininfluente ai fini della classifica ed è Benetton Treviso Perpignan, che si giocherà alle 18.35 a Monigo, e l'altra invece molto importante è questo Montepaschi Viadana Bayonne, valido per la Challenge Cup. Se Viadana vince, con ogni probabilità diventa la prima squadra nella storia del rugby ad arrivare ai quarti di finale in Eurocoppa, considerando sia la Heineken sia la Challenge. Quindi questo è ciò che abbiamo vissuto e ciò che ci attende, ovviamente tutti a fare tifo per Viadana, che a caccia di un risultato storico. Vorrei invece parlare di ciò che ci attende tra un po', cioè Sei Nazioni, in cui ci tufferemo già da sabato prossimo naturalmente. Un Sei Nazioni che, come saprai già, come penso sappiano tutti gli appassionati di rugby a quest'ora, Sei Nazioni che si appresta a fare trasloco televisivo su Sky dalla prossima stagione. I 10 milioni di Sky prevalgono sull'offerta della 7 e dunque rugby criptato a quanto pare, cosa che ha fatto arrabbiare non poco il presidente federale Dondi, che ha detto: rischiamo un danno d'immagine spaventoso, non avere una diretta in chiaro delle partite dell'Italia nelle Sei Nazioni danneggia i nostri sponsor di maglia, così come chi compra gli spazi a bordo campo. I Sei Nazioni è in chiaro, è visto dalla gente, in questi anni l'interesse è cresciuto in modo esponenziale, mentre così si blocca tutto rispetto a Sky, ma per il rugby italiano è un brutto giorno, ha detto Dondi, rischiamo di passare dal 1,5 milioni di spettatori di la 7 ai 200.000 del Mondiale di Francia 2007. Che ne pensi, Giacomo? E guarda, effettivamente il boom del rugby italiano, favorito naturalmente dalla partecipazione a Sei Nazioni, si è registrato da quando la Sette ha acquistato i diritti nel 2003 e ha cominciato con regolarità a mostrare tutte le partite del Sei Nazioni, quelle dell'Italia ma anche quelle delle altre squadre. È l'unico modo effettivamente, dando le partite in chiaro e dandole in diretta, per fidelizzare un largo pubblico. Ricordiamo che in precedenza le partite venivano trasmesse dalla Rai, che per un motivo o per l'altro non sempre era, diciamo così, puntualissima. Ricordo partite date in differita a tarda ora, oppure sintesi delle partite, e si parla delle partite dell'Italia. Sì. Chiaramente la Sette ha fatto un grande lavoro a favore del rugby italiano, ci ha creduto. Un grande lavoro a favore del rugby sta facendo anche Sky, certo, i dati di ascolto, bisogna dirlo, caleranno, forse crolleranno addirittura, anche se si può sperare che gli appassionati di rugby troveranno sicuramente il modo, abbonandosi, sì, andando alla clubhouse eccetera, di vedere le partite in diretta. Però al grande pubblico questa opportunità non verrà data con la facilità di prima, e questo indubbiamente è un peccato. La differenza delle offerte era, io penso, abbastanza netta, cioè penso che fossimo intorno al 1.800.000 euro a stagione come offerta di La Sette, e invece ci sono questi 2.5 milioni di Sky. Sono tutte cifre non ufficiali, ecco, sono, sì, stime, certo, eccetera, e chiaramente non è una cosa che può decidere la Federazione Italiana, perché c'è una società che gestisce le federazioni, e chi fa l'offerta più alta la vince. Sicuramente Sky, trasmettendo in criptato, dovrà poi cedere i diritti in seconda battuta a una televisione che trasmetterà in chiaro la partita, però registrata. Insomma, sì, per la popolarità del rugby sicuramente non è una cosa vantaggiosa, così detto, certo, così a bocce ferme. D'altronde questa, Carlo, possiamo dire, è stata la settimana delle novità anche in campo organizzativo, in campo economico. C'è stato questa doccia scozzese, possiamo veramente, sì, definirla così, visto che riguarda la Royal Bank of Scotland. Prima la notizia del tracollo finanziario dello sponsor unico del Sei Nazioni, che comunque col 2009 avrebbe concluso il suo impegno, e poi un po' a sorpresa invece la notizia ancora più fresca della rinnovata sponsorizzazione da parte dell'Istituto di Credito Britannico, che quindi sponsorizzerà il Sei Nazioni fino al 2013. Questo la dice lunga comunque anche sull'importanza che viene attribuita a questo torneo come veicolo pubblicitario, anche in momenti di magra, anche in momenti di difficoltà economiche. Però evidentemente un torneo di questo genere fa gola, e anche strategicamente viene una sponsorizzazione di questo tipo viene considerata importante. Poi è arrivata la notizia che riguarda la Celtic League, Carlo, che è un argomento di cui noi non ci priviamo mai, giustamente, certo. E in settimana è arrivata la notizia che il comitato organizzatore, che gli organizzatori della Celtic League hanno dato via libera a una partecipazione italiana limitata a due formazioni, sì, che poi siano club. O siano super selezioni, questo non si sa, però dovranno essere formazioni che non avranno tra i loro tesserati più di 5 giocatori stranieri o comunque non eleggibili. Ci vorranno delle garanzie di tipo economico, di tipo logistico, e quindi adesso è il momento di farsi avanti. Vedremo se si faranno avanti dei club singoli, degli aggregati di club, se interverrà sarà una chance da giocarsi nel modo migliore, questa della Celtic League, anche alla luce, per l'appunto, come ripetiamo tutte le volte, dei risultati che ci piovono dai campi delle coppe europee. Grazie Giacomo, alla prossima. Grazie a voi. Primo ascoltatore di oggi, Marco, provincia di Siena, buongiorno. Buonasera. Dica. Io chiamo dopo che ho sentito queste bruttissime notizie per quanto, sì, riguarda la diretta del Sei Nazioni, nel senso che sono veramente incazzato nero, perché non è possibile che qui qualsiasi evento che non sia calcio, dove la Rai prova a fare un po' di resistenza, va, se perlomeno un pochino interessante, va a finire su Sky. Cioè, sì. Veramente a nome di tutti gli sportivi che seguono il rugby sono veramente incazzato. La capisco, ma questione che è una questione che non dipende, come lei ben sa, dalla federazione italiana, no? Dipende dalla RAI, dipende dalle offerte e quindi dalla completa assenza, sì, della RAI, che pensa esclusivamente al calcio alla faccia del servizio pubblico. Insomma. In questo senso sì, poi è un'offerta che è stata presentata in busta chiusa a chi gestisce i diritti televisivi, all'organizzazione che gestisce i diritti televisivi della trasmissione delle Sei Nazioni, la Six Nations Rugby Limited, e dunque questa offerta è stata accettata. Ovviamente, come lei, è arrabbiato il presidente federale Dondi, per grosso modo per gli stessi motivi. È chiaro che, insomma, abbiamo la cartina tornasole dei dati d'ascolto dei mondiali, che pure erano molto attesi dopo un Sei Nazioni molto positivo dell'Italia, e i dati d'ascolto sono lì da vedere, quindi credo sia ancora da giocare la partita, perché di fronte a questa notizia il presidente Dondi ha reagito dicendo: non so se possiamo rimanere, ovviamente secondo me un po' esagerando, se possiamo rimanere nel Sei Nazioni in queste condizioni. È chiaro che è una questione tutta da risolvere, da discutere, e anche in tempi brevi, perché si parla già dell'anno prossimo, della prossima edizione del Sei Nazioni. Marco, grazie, la lascio a metabolizzare la sua rabbia. Mentre vi do un'altra notizia rugbisticamente molto importante, perché tra calcio e rugby c'è un club di Serie A italiano che ha deciso di dare una mano al rugby pugliese, che è una realtà in crescita, quella del Trepuzzi, che è un piccolo club rugbistico, che però ha fatto una grande cosa, cioè quella di costruire il primo stadio di rugby in Puglia. C'è Lecce che ha detto: vogliamo darvi una mano, perché? Ce lo facciamo raccontare dall'amministratore delegato del Lecce, Claudio Fenucci. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, saluto a tutti. Il Lecce accanto al rugby, il Lecce nel rugby, che succede? Ma è una idea che mi è nata un po' di tempo fa, era legata al fatto che, guardando da tempo il rugby anche per una tradizione familiare, perché parte della mia famiglia originaria dell'Aquila, sì, dove il rugby ha una tradizione radicata un po' come nel Triveneto, e vedevo che nonostante che questo sport sia diventato altamente spettacolare, rimane comunque legato a valori di rispetto delle tradizioni, attaccamento, diciamo, al gruppo di gioco, rispetto dell'avversario soprattutto, del tifoso avversario, che sono valori che nel calcio abbiamo perso. Io faccio questa attività nel Lecce da ormai da 12 anni e vedo che sempre più, in sostanza, noi ci stiamo muovendo verso un calcio spettacolo che, sì, lascia un po' da parte, senza voler fare del moralismo, diciamo, certo, picciolo, però lascia un po' da parte quelli che sono i valori fondamentali dello sport, che li recuperi solo attraverso il settore giovanile o dando una mano alle altre discipline. La prima che mi è venuta in mente, anche per, ripeto, perché è un po' in questo momento all'opposto del calcio proprio per questo tipo di valori, è stato il rugby, e quindi, siccome volevano crescere soprattutto a livello giovanile, sì, e volevamo fare un piano coordinato, visto che noi abbiamo già un'attività nelle scuole di promozione eccetera, l'abbiamo voluto fare insieme a loro, in modo da dare un'opportunità ai ragazzi in più. Molto spesso il rugby aiuta anche dei ragazzi che magari non amano il calcio, comunque hanno anche difficoltà di inserimento nella vita, certo, sociale, per problemi, diciamo, di aggressività, diciamo, sempre, sì, sì, sì, limitata a sfogare questa aggressività in campo e non nella vita di tutti i giorni. Quindi una collaborazione anche operativa, non soltanto economica. Sì, diciamo, supporto economico e una collaborazione anche operativa, sia da sotto l'aspetto commerciale, se, sì, può nascere qualche sinergia e riuscire a trasferir loro qualche nostro sponsor, ma soprattutto a livello organizzativo, aiutandoli a crescere col rispetto della loro indipendenza e delle loro scelte. Quindi non è un progetto per portare comunque il rugby dalla Serie C alla B alla A eccetera, raggiungere, sì, risultati sportivi, ma radicare la cultura di questo sport e l'attività sportiva a livello giovanile nel territorio salentino. Io non le so dire se è una notizia migliore per il rugby o per il calcio, probabilmente per tutte e due in egual misura, questa della collaborazione, dell'impegno del Lecce nel rugby, per i motivi che lei ha sottolineato. Tanto più che lei diceva: insomma, nel calcio stiamo perdendo questi valori, avevamo anche inventato un terzo tempo nel calcio che chissà che fine ha fatto. Sì, è anche vero che le tensioni che noi viviamo domenicalmente sono tante, sono causate dalla pressione mediatica e anche sociale che il calcio vive. Noi stessi domani abbiamo una partita importante in cui ci giochiamo una parte sì. della permanenza in Serie A, e questo ci succede tutti gli anni, perché lotti per salire o per difendere la categoria, hai sempre tensioni, e questi si scaricano sui giocatori e talvolta nell'immediato diventa difficile. Quello che il calcio ha sbagliato in tutti questi anni è stata soprattutto la comunicazione, che è stata lasciata libera, le iniziative delle singole società, non coordinata come avviene nello sport americano magari centralmente, e le migliaia di polemiche nate per i casi più disparati, oltre tutto certo, quello che abbiamo assistito certo. con Calciopoli eccetera, sicuramente non hanno giovato all'immagine di uno sport che rimane comunque il più amato all'interno del paese. Sicuramente gli errori di comunicazione sono stati errori reali, e poi difetti di comunicazione che hanno, credo, cancellato l'immagine o indebolito l'immagine di questo sport presso i tifosi. Le chiedo ancora questo: da aquilano e da appassionato di rugby, da operatore del calcio, come valuta questa notizia che ha fatto così arrabbiare i nostri ascoltatori del Sei Nazioni su Sky? Sì, ma presso io sono romano, quindi tradizioni diciamo per metà abruzzese. Sì. È difficile, lo sport va verso i grandissimi eventi, e questa è una certo. tendenza a cui non possiamo contrastare. Gli sponsor, l'attenzione mediatica si concentra sui grandi eventi diventano dei prodotti, purtroppo volenti o nolenti, di un sistema televisivo che tende a sempre più a privilegiare per ovvie esigenze economiche il codificato rispetto al chiaro, e che purtroppo sempre più vedremo questi eventi che si sposteranno su questi sistemi. Bisogna raggiungere un compromesso fra garantire in determinate occasioni una visibilità totale, effettivamente chiara e libera per tutti quando si tratta di partite o di eventi sportivi che hanno una ampia risonanza, certo. e coniugare anche gli interessi delle pay TV, che comunque in questo momento sostengono in maniera diversa gli sport. Certo che a livello di Rai c'è stata il calcio ha fagocitato molto degli introiti e dell'interesse. Certo. Una delle critiche che ho fatto alla televisione di Stato negli anni scorsi è quella magari di aver speso una marea di risorse per acquisire la Champions League, lasciando poi la Serie B al suo destino, come tutti gli altri sport minori. Chiaro. La ringrazio, un bocca al lupo per domani, davvero importante Lecce Torino. Grazie davvero. Grazie. Arrivederci, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a Claudio Fenucci, amministratore delegato del Lecce Calcio, che come abbiamo spiegato si impegna nel rugby. Adesso sigla, chiudiamo la parentesi del rugby e ne apriamo un'altra. Parentesi che è quella degli sport invernali. Saluto subito Dario Puppo. Ciao Dario. Ciao Carlo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Partiamo da Carolina Costner, da un tuo commento su questo argento. Ma io l'ho seguito di sfuggita. È chiaro che quello che è successo nel programma corto di ieri ha molto condizionato la sua prestazione in generale, però devo dire c'è stato il riscatto. Oggi non ha praticamente commesso errori così evidenti. In qualche modo c'era però anche veramente una Finlandia ben organizzata per questo appuntamento degli europei. La Lepisto ha vinto la medaglia d'oro. Carolina aveva bisogno di risposte importanti in vista dell'appuntamento di Los Angeles ai campionati del mondo. In parte o diciamo quasi completamente sono arrivate, perché la concorrenza chiaramente a livello mondiale sarà tutt'altro. Peccato non aver ripetuto quel titolo europeo che aveva già vinto in più di un'occasione. Significava consolidare un primato, una leadership europea molto importante, però direi che tutto sommato, al di là di eventuali reclami o meno, insomma, da parte del clan Costner e sì. in generale della Federazione Italiana, direi che forse la vittoria della Lepisto ci sta, insomma. Sì. Dario, invece oggi nella Libera abbiamo visto questa doppietta svizzera, De Fago tra gli uomini sulla temutissima Strife, e Ghisen sul fronte femminile a Cortina, ma Andrea Kitzbühel per questa discesa che, insomma, ci ha riservato nelle prove quello che ben sapete è la gravissima caduta di cui abbiamo ancora negli occhi le immagini terrificanti. Oggi altre cadute prima della vittoria di De Fago. Sì, ce n'è stata una in particolare di TJ Lenning, che tra l'altro ha avuto già tanti infortuni nel passato, lo statunitense, però per fortuna senza gravi conseguenze, molto diversa, e tra l'altro in un punto differente, insomma, all'inizio dell'Ausbergkante, il punto più, insomma, riconoscibile della strife, la diagonale verso sinistra, che è davvero terribile. La cosa importante è che in gara non ci siano stati incidenti come quello di Scott McCartney dell'anno scorso o di Daniel Albrecht. Per quanto riguarda invece l'aspetto proprio della gara, gli svizzeri hanno fatto ancora parlare, perché De Fago sembra davvero inarrestabile, è il primo a vincere Strife e Lauberhorn Wengen praticamente nello stesso anno dai tempi di Eberharter, e soprattutto se si va a vedere i primi dieci, Carlo, si vede come sette di questi primi dieci hanno già vinto in Coppa del Mondo. Di sorprese ce ne sono state poi in realtà due, una francese Poisson e l'altra italiana Tanai, che è riuscito a ottenere il miglior risultato della carriera con l'ottavo posto. Sesto in Eurofer, in generale l'Austria può essere contenta perché veniva da un diciottesimo solamente posto a Wengen e ne ha messi due sul podio, anche se De Fago è andato in testa alla classifica di specialità. Attenzione però a Reich, perché secondo me alla fine di questo fine settimana allungherà parecchio nella classifica generale, perché è arrivato dodicesimo nella discesa, e domani, insomma, farà una gara ragionata, un po' come nella Formula 1 faceva Alain Prost, prende 100 punti in combinata, magari ne prende, non so, facciamo 40, magari anche 50 in slalom, e può allungare. Grazie Dario. Grazie a te. Grazie a Dario Puppo. Dunque, vi do al volo, cosa che non ho ancora fatto, me ne scuso, i risultati parziali. Siamo intorno alla mezz'ora del secondo tempo. In Serie B, i risultati che stanno maturando: Livorno-Avellino 0-0, Brescia 2, Empoli 0, Rimini-Parma 0-0, così come Sassuolo-Salernitana, Cittadella-Piacenza, festa del gol 3-3 al momento, Grosseto 2, Pisa 1, Frosinone 1, Mantova 1, il Modena che sta vincendo a sorpresa sul Prato dell'Albino Leffe, Vicenza 2, Ascoli 1, questi risultati ancora parziali in divenire. Dopo questa breve pausa torniamo per chiudere la parentesi dello sci, perché stiamo aspettando un ospite, e per cominciare a aprire quella invece calcistica. A proposito, vi do al volo una notizia: Cassano domani non gioca con l'Inter. Ne ha parlato oggi Mourinho quando ancora la notizia era in forse, mentre ora è ufficiale, non è stato convocato per la trasferta della Sampdoria a Milano. Vorrei subito tranquillizzare Giorgio, un ascoltatore che invia un sms: non abbiamo comunicato che il prossimo Sei Nazioni sarà criptato, ma quello del 2010, quindi per quest'anno Sei Nazioni rimane sulla 7. 800 24 00 24 è il numero verde per contattarci. Volevo chiudere la parentesi degli sport invernali salutando e ringraziando una grande sciatrice che in questo momento si è dedicata, essendo infortunata, al commento televisivo dello sci su Eurosport. Elena Fanchini, buon pomeriggio. Sì, ciao, buonasera a tutti. Come ti trovi in questa veste davanti al microfono? Sì, no, è una nuova esperienza che mi faccio, sicuramente mi diverto e mi piace commentare le ragazze. Sicuramente mi manca l'usci, mi manca la competizione, mi mancano le gare, però d'altronde quest'anno il destino ha voluto che mi infortunassi all'inizio di ottobre, quindi la stagione per me è finita, inizio a sciare verso marzo-aprile. E ti aspettiamo carriera assolutamente a tempo, quella di commentatrice televisiva al momento. Cos'hai detto oggi davanti alla gara di Cortina? Beh, no, sicuramente ha fatto molto bene la Gisin, la sua seconda vittoria consecutiva in discesa, ed è molto difficile... È difficile confermarci, quindi è stata veramente brava la Svizzera della classe 1985. Poi, vabbè, mia sorella Nadia è andata così, mi aspettavo qualcosa di più, però alla fine un sedicesimo posto può essere soddisfatta. Wendy invece bene, sorpresa. Wendy sì, lei è proprio di Cortina, abita qui, quindi quella pista la conosce perfettamente. Sono contenta per lei, perché dopo anni che ha fatto tanta fatica ha fatto un risultato che può far sperare in futuro. Sì. Elena, ti chiedo ancora questo: cosa hai provato di fronte alle terribili cadute sulla Strife? Beh, io non l'ho guardata tanto, ho visto sicuramente la caduta terribile di Albrecht, che sì. Quando vedo quelle brutte cose quasi, cioè alla fine dico vabbè, ma è andata ancora bene alla fine, certo. non mi sono fatto ancora niente confronto a quello che si è fatto lui. Sicuramente quella è una pista dove anche l'anno scorso era caduto l'americano Sullivan e McCarthy. Però sì, sicuramente sono bruttissime cose. C'è da lavorare sul fronte sicurezza ancora, Elena. Beh, sicuramente sì, perché anche questi sci così sciancrati dicono che portano più infortuni e fanno paura queste cose. Grazie Elena, buon lavoro. Sì, è bello, però sì, con queste cose perde un po'. Grazie Elena, buon lavoro. Grazie a voi. Ti aspettiamo. Grazie Elena Fanchini, ti aspettiamo presto sulle piste, però il microfono può attendere, secondo me, per un atleta come Elena Fanchini. Festa del gol, dicevo, sul campo della Cittadella, che ora conduce 4-3 sul Piacenza. Sassuolo in vantaggio sulla Salernitana. Pensalfini ha dato punto in gol. Grosseto 2, Pisa 1, sempre. Non sono cambiati gli altri risultati, se non il pareggio dell'Albino Leffe con il Modena. C'era da dare un'occhiata al programma della Serie A, che dite? Aldo Serena, buon pomeriggio. Buonasera a tutti. Ciao Aldo, grazie per essere con noi. Settimana non banale quella delle milanesi, dal caso Kakà al caso Mourinho. Partiamo da Kakà, una bella storia, secondo me è una storia divertente alla fine quella di Kakà, su cui si è ricamato molto. Io non credo alla tesi del complottismo. Oggi Buffon, leggo in un'intervista su Carta Rosa, dice: un teatrino più che una scelta, club come Juventus, Milan e Inter, se vogliono fare un affare non lo sbandierano. Se arrivasse un'offerta da fantacalcio per me, andrei subito, liberando dalle incertezze, dalle ambasce la Juventus. Tu come l'hai letta questa vicenda, Aldo? L'ho letta anch'io, mi ha incuriosito. Devo dire che Buffon è sempre abbastanza schietto nelle sue cose e credo comunque che sulla vicenda Kakà Milan non abbia ragione, almeno sono convinto che l'offerta ci sia stata, fosse concreta, decisa, e che il Milan ci abbia pensato, perché sono offerte, secondo me, uniche, quelle che forse passano una volta sola. E poi sia stato Kakà, sia per la manifestazione d'affetto che ha ricevuto dai tifosi rossoneri, ma anche perché forse ha avuto qualche dubbio a 26 anni andare al Manchester City in un contesto che non lo avrebbe di certo valorizzato, se non forse fra qualche anno, quando lui sarebbe stato sulla trentina, quindi ha fatto la scelta giusta, secondo me. Ma anche secondo me la penso esattamente come te, cioè non è stato un teatrino, non è stata una messa in scena, non è stata una montatura, l'offerta c'era. Milan aveva già firmato anche qualcosa su cifre ben note, 110 milioni di euro, e poi appunto è stato Kakà, per le ragioni che tu dici, secondo me, a dire: no signori, io lì a 26 anni da numero uno del mondo per il momento non vado, grazie, non ripassare più tardi. È chiaro che se il Milan avesse ceduto sarebbe stata la fine di un'epoca per il Milan, perché bisogna dire le cose come stanno. Il Milan negli ultimi 20 anni, i campioni li ha sempre comprati, mai venduti. Sì, questo è vero, però io penso che bisogna anche essere al passo con i tempi, e in un contesto di crisi generale si possono fare anche operazioni che non si sono mai fatte prima. Il Milan non lo ha fatto, sono tutti contenti i tifosi rossoneri, però ritornando a quello che ha detto Buffon, forse lui lo farebbe. Io penso che ora anche i grandi campioni che arrivano a ricevere offerte strepitose, se non colgono l'occasione, potrebbero anche, non dico perdere di motivazioni, però anche cambiare qualcosa. Certo. Insomma, io penso che ci sono momenti per tutto, e se a un certo punto c'è un momento per andare, si va, e la squadra con quei denari può costruire, se è capace, se è brava, se è attenta, se ha grandi osservatori, una squadra nuova con giovani interessanti. Aldo, io mi aspetto una reazione emotiva dal Milan domani a Bologna. Non giocherà Ronaldinho, che è stato lasciato in panchina da Ancelotti, Seedorf nel ruolo di trequartista, ovviamente in campo Kakà, ma mi aspetto una reazione emotiva dopo questa settimana così strana. Sì, anch'io mi aspetto una reazione forte, anche se non sarà facile giocare contro il Bologna di Mihajlovic. La notizia è che non gioca Ronaldinho. Io mercoledì, dopo l'amichevole di Hannover, avevo fatto una domanda a Carlo Ancelotti e gli ho chiesto: ma rivedremo ancora quel Milan di Roma, così apparentemente sbilanciato in avanti, che poi è andato anche a pareggiare con Beckham, Pirlo, Seedorf a metà campo e Ronaldinho, Pato, Kakà? E lui mi ha detto: sì, probabilmente lo vedremo ancora, non sempre, qualche volta sì, a Bologna no, perché si è accorto che in un momento come questo, per giocare con tali stelle, serve anche la corsa, serve un adeguato atteggiamento tattico che per ora Ancelotti non vede. Aldo, qualche reazione emotiva potrebbe averla anche l'Inter dopo quello che è successo in settimana, dopo queste presunte frasi di Mourinho, che ha già detto querelo tutti eccetera eccetera, ha confermato quanto ha detto. Si confermano però due nervi scoperti per l'Inter: uno è quello del recente passato, sul quale l'ambiente è sempre molto permaloso, e poi quello di uno spogliatoio con dei muri che sono un po' troppo sottili, mi pare. Fino adesso adesso nell'avventura Mourinho per un po' di tempo la cosa era cambiata, non usciva nulla. Ora si è tornati alle antiche abitudini, che non sono certo sane per l'allenatore e per tutta la società, ed è una cosa che fa, che dà secondo me il termometro di qualcosa che forse sta cambiando. Certo, e Balotelli è ancora fuori, si aspettava di rientrare, invece ancora fuori. Senza Ibrahimovic c'è un rapporto strano fra Mourinho e Balotelli. Vuol dire che Mourinho è un allenatore spigoloso che a volte gioca con le parole molto bene, a volte anche rischiando qualcosa. Secondo me dopo Bergamo, dopo la sconfitta con l'Atalanta, è andato oltre certi limiti parlando, prendendosi, come lui sa fare al solito, le colpe, ma un po' così, insomma, non in maniera veritiera, e poi dando quelle frecciate così a campioni come Cordoba, come aveva fatto in passato anche a Cruz. Sì. E con Balotelli non so se stia facendo proprio tutto il bene di questo ragazzo, che ha grandissime qualità tecniche, sicuramente è un carattere non facile e quindi ha bisogno di una guida. E probabilmente con Mourinho non c'è rapporto e certo, non è diventato la sua guida, e credo sarà difficile che lo diventi. Certo, Aldo, tu hai frequentato gli spogliatoi più importanti d'Italia, è inutile ricordare quali, le due di Milano, le due di Torino, quelli della Nazionale. Insomma, oggi leggevo un'intervista a Berti che dice: va bene, gli spogliatoi sono cose che succedono, ci si dice di tutto, ci si grida di tutto, si rischia di arrivare anche alle mani, quindi anche se quelle parole di Mourinho fossero state vere, insomma, alla fine, come ha detto Ancelotti oggi, certe volte le reazioni forti servono, ci sono, non è il caso di farne un caso politico. Ma farne un caso no, però quando sono situazioni fra giocatori sono più comuni, secondo me. Quando ci sono degli atteggiamenti che rasentano la violenza fra, oppure atteggiamenti un po' così decisi fra allenatore e qualche giocatore, allora le cose, secondo me, sono un po' più gravi. Ti chiedo ancora questo, Aldo. Sabato scorso eravamo entrambi allo stadio a vedere Milan-Fiorentina. Tu come commentatore di Mediaset, Prandelli ha detto: la Fiorentina di San Siro può bastare. La Fiorentina che ho visto io a San Siro non può bastare stasera con la Juventus. No, soprattutto nei primi 20 minuti a San Siro la Fiorentina ha avuto un atteggiamento passivo e il Milan ne ha approfittato. Poi nel secondo tempo ha giocato bene, ma deve essere più concreta. È una Fiorentina che giocherà contro una squadra diversa rispetto a quella di una settimana fa, una squadra più compatta, più quadrata, quindi deve avere una decisione in attacco maggiore, deve avere più scaltrezza nell'area di rigore avversaria, perché la Juventus non regalerà molte volte giocatori facili da andare al tiro. Certo. Aldo, grazie, buon lavoro. Buona serata a tutti. Grazie davvero, Aldo Serena. Scrivete i nostri contatti 800 24 00 24, se volete telefonare o se volete scrivere sms 349 238 6666. Parziali in Serie B, siamo vicini al 90esimo, Livorno-Avellino 0-0, ed è un risultato che non può che far felice il Bari, da ieri sera solo al comando della classifica. Quindi Brescia 2, Empoli 0, Rimini Parma resiste sullo 0-0 iniziale, Sassuolo vince 1-0 con la Salernitana, come detto 4-3 della Cittadella sul Piacenza. Il Grosseto invece negli ultimi minuti, nel giro di 4 minuti, 40esimo e 44esimo, ha chiuso la pratica Pisa e ora vince 4-1. Il Mantova si è portato in vantaggio a Frosinone, doppietta di Giorgio Corona, e dunque Mantova 2, Frosinone 1, mentre l'Albinoleffe ha completato il sorpasso sul Modena dallo 0-1 al 2-1 di Sissé e Perico, i gol dell'Albinoleffe. Sempre Vicenza 2, Ascoli 1. Prima di sentire quello che ha detto oggi Mourinho sulle sue intenzioni di querela, e su Cassano, che invece ha confermato non ci sarà, sentiamo Claudio da Genova. Buonasera Claudio. Buonasera. Volevo fare una considerazione prendendo spunto dalla vicenda Kakà. Sì. Mi chiedevo questo, a difesa del consumatore, cioè il Milan avrà fatto una campagna per avere degli abbonamenti, per vendere poi degli abbonamenti Mediaset Premium, per vendere gli abbonamenti Sky. Ma non credo sia una cosa tanto così moralmente giusta poi vendere un giocatore che magari è quello che ha fatto vendere questi abbonamenti. La gente rimane con il cerino in mano. Sì, questo è un aspetto. Io ripeto quanto ho detto sabato scorso, quanto ho detto in settimana, quanto dico oggi e dirò domani. E quanto ha detto prima Aldo Sereni, insomma, di questi tempi si può anche, è legittimo anche valutare un'offerta di questo tipo, non dico sia giusto o sbagliato, ma legittimo da parte di chi della proprietà di un club. L'importante è raccontare alla gente tutta la verità, e la verità è che insomma, il Milan aveva intenzione di cedere il giocatore di fronte a questa offerta fuori mercato da parte del Manchester City. Il giocatore ha rifiutato il trasferimento e la vicenda si è chiusa in questi termini. Io non credo né alla versione della montatura ad uso e consumo di chissà chi, non credo ad altri discorsi. Semplicemente il Milan aveva l'intenzione di cedere per la prima volta dopo 20 anni il suo miglior giocatore, il giocatore più forte del mondo. Kakà ha chiuso la porta, non so se la aprirà poi a qualcun altro vestito di bianco, questo lo scopriremo. Certo è che l'importante è ricondurre la vicenda in questi binari, secondo me. Quindi è tutto legittimo pensarci, è tutto legittimo vendere, però l'importante è raccontare alla gente queste cose e non cose differenti da queste. Dunque adesso sentirei cosa ha detto oggi Mourinho sulle sue intenzioni relativamente a quanto si è scritto in settimana, a quelle frasi ormai conosciute da tutti e pronunciate, che Mourinho avrebbe pronunciato in uno spogliatoio di Bergamo. Cosa vuole fare Mourinho? Ce lo dice lui. Io non parlo, io pago il mio avvocato per parlare lui, e io parlo quando devo parlare in tribunale. Non lo so se la giustizia qua è lenta, se è veloce, non lo so se sarà qualcosa per fare fra un mezzo o due, se sarà come in qualche paese che è un anno o due, non lo so. Però mi piacerebbe che fosse domani, perché non posso parlare e non vado a parlare. Noi vogliamo sapere lo stesso che gli altri vogliono sapere, chi gioca, chi non gioca, chi non è disponibile, chi è squalificato, chi è infortunato. Se arriva la notizia che Cassano non gioca, non gioca. Giocherà, non lo so, Pazzini con Bellucci, non giocherà Bellucci, giocherà solo Pazzini con uno più in centrocampo. Non lo sappiamo, ma è importante sapere se lui è in condizione o no di giocare. È un giocatore con grandissima qualità, e se non gioca, gioca un altro, però l'importante per noi è di sapere se lui è in condizione di giocare o no. L'importante è giocare come squadra e giocare bene. Se giochiamo come squadra, se giochiamo bene, si gioca con due punte, si gioca con Adriano e due esterni, si può giocare di ogni modo. L'importante è l'atteggiamento, l'importante è giocare come squadra. Queste dunque le parole di Mourinho, che ancora non sapeva, visto che la notizia successiva del definitivo forfè di Cassano per la partita di domani non è stato nemmeno convocato da Mazzarri, e dunque sarà una Sampdoria priva del suo giocatore simbolo, del suo giocatore di maggior talento. Quindi Mourinho, che ha intenzione di agire legalmente, avete la frase avete sentita, letta più che altro in settimana. Ad esempio su Repubblica: uno scudetto l'avete ritirato in segreteria, un altro avete vinto perché non c'era nessuno, un altro ancora avete vinto all'ultima giornata e all'ultimo minuto, siete una squadra non fortissima. Mourinho l'ha detto proprio così, però insomma, la frase è quella, insomma, sì, uno sfogo molto duro che conferma, però tutto quello che è successo dopo conferma quanto ho detto prima, cioè che sono un paio di nervi scoperti ormai tradizionali per l'Inter. Il primo è quello relativo al suo recente passato, guai a chi lo tocca, perché poi si imbestialiscono tutti. Recente passato sul quale l'ambiente è inevitabilmente, giocatori compresi, molto suscettibile, molto permaloso. Il secondo, e non è nuovo questo aspetto perché ne abbiamo vari esempi in passato, è quello di Muri, che parlano troppo, che sono troppo sottili nello spogliatoio dell'Inter. Quindi non so, questa reazione di Mourinho nei confronti di chi ha riportato la frase. Sarei curioso, ma questo non lo sapremo, di sapere qual è stata la reazione di Mourinho nei confronti di chi ha fatto uscire queste cose. Se ha dei dubbi, se ha fatto qualcosa o detto qualcosa in proposito, perché grave scrivere, ma grave anche che arrivino ad orecchi indiscreti, insomma. Andiamo invece su quello che Mourinho ha detto a proposito del grande assente di domani, Zlatan Ibrahimovic. Non si può sostituire direttamente un giocatore come lui, che è unico, che ha dato una contribuzione fantastica per la squadra durante tutte queste partite. È impossibile sostituirlo con un cambio diretto. L'unica possibilità è giocare come squadra, di modo compatto, tutti insieme, con la consapevolezza di che è una partita importante per noi, e dimenticando questo è un giocatore che è ovviamente super importante per noi, ma dimenticando, non voglio parlare molto di Ibra oggi perché non c'è Ibra domani, e è senza lui che dobbiamo giocare questa partita, e è senza di lui che dobbiamo vincere questi tre punti che sono importanti. Questo il commento di Mourinho su Ibrahimovic, mentre su Balotelli, non convocato. Perché non convocato? Normalmente lo spiega, perché oggi ha detto semplicemente scelta tecnica, non una parola in più. Ha parlato invece l'allenatore dell'Inter di un Adriano che sta riprovando a tornare in gruppo, sta riprovando a tornare un giocatore importante. Sentiamo. Adriano bene, è un giocatore molto importante, è un giocatore di grande capacità, ha fatto una grandissima partita contro la Roma, già aveva fatto bene con Atalanta, già aveva fatto una grande partita con il Genoa. Sembra che vive in questo momento un momento molto importante, ma è un po' lo stesso discorso. Se la squadra gioca come squadra, se la squadra gioca bene, l'individuale ha molto più condizioni per fare bene. Ma in questo momento abbiamo fiducia che lui può aiutare di nuovo a conseguire un risultato importante. Adesso ci trasferiamo sull'altra partita di cartello di domani, che è quella di Napoli. A proposito, tutto esaurito, è arrivata la notizia ora al San Paolo, domani per una Napoli-Roma che nasce sotto la stella delle polemiche che conoscete, innescate dalla Roma. Qui ieri Marino ha risposto dicendo: se loro vogliono fare un dossier potremmo farlo anche noi, poi non lo facciamo, eccetera eccetera. Insomma, ognuno si lamenta. Sentiamo invece cosa dice Spalletti, che recupera per l'occasione Francesco Totti, che andrà quantomeno in panchina. Sentiamolo. Io penso che possano giocare tutti domani. Ora li ho tutti a disposizione. Qualcuno naturalmente avrà bisogno di qualche altro allenamento per essere poi nelle condizioni ottimali, però proprio in previsione di queste tre partite, insomma, che ci sono in una settimana, è chiaro che poi, ed è ciò che volevo fare anche prima, li ruoterò volentieri e giocheranno quasi tutti, però quello che è la formazione, insomma, ci devo pensare ancora bene. Totti è a disposizione. Quello che temo non è sicuramente l'ambiente di Napoli, ma è la bontà della squadra, perché è evidente che ha fatto un grande lavoro insieme alla società in questi anni. Basta vedere dove è arrivato il Napoli, poi in che posizione di classifica è attualmente, la qualità del calcio che ha espresso sotto la conduzione di Reja, i giovani che poi ha messo in evidenza, proprio le scelte di Marino e le scelte di De Laurentiis, che cosa sono riusciti a costruire. Poi è chiaro che lì, di fronte al loro pubblico, loro sanno dare forse qualcosa di più, perché come il nostro è un pubblico molto passionale che riesce a determinare molto poi come scariche adrenaliniche alla squadra che gioca in campo. Dall'adrenalina di Spalletti ai finali in Serie B, tutti i finali: Livorno-Avellino 0-0, Brescia batte Empoli 2-0, Rimini-Parma 0-0, Sassuolo batte Salernitana 1-0, Cittadella-Piacenza finisce 4-4, 4-1 invece del Grosseto sul Pisa, il Mantova vince 2-1 a Frosinone, l'Albino Leffe batte 2-1 il Modena, il Vicenza batte 3-1 l'Ascoli, con gol di apertura per il Vicenza del neoacquisto Forestieri. In classifica: Bari 40, Livorno 39, Brescia 38, Sassuolo 36, Parma Grosseto 35, Empoli 33, Vicenza Triestina 32 e via via tutte le altre. Grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Giacomo Spunti in regia. Con lo sport ci sentiamo domani pomeriggio alle 17.